L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. La quotidianità politica ed economica europea viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi, lo sapete, il sabato cerchiamo anche altri punti di vista e stiamo dedicando queste quattro puntate di agosto, le stiamo dedicando a quelli che sono temi centrali dell'Europa, a vedere quelle che sono le ricadute pratiche sul territorio, dove vanno a finire i fondi europei. Vi narriamo quelli che sono progetti ed esperienze e buone pratiche che possono essere anche replicate. Oggi parliamo di ambiente e di sostenibilità, quindi andremo a cercare l'Europa lì, in questo campo. Le coordinate: euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, tante voci diverse, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. Le nostre piazze virtuali invece, le piazze digitali, Facebook e Twitter, ci trovate con Euronet Plus R24 oppure attraverso il mio account personale Federico Taddia, e lì mettiamo i link di tutti gli argomenti che andiamo a toccare minuto per minuto. Ogni settimana un viaggio, oggi parliamo di ambiente e partiamo dalla pesca. Con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi che tornerà l'uomo mio. Difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero è un triste colore, la mia pelle bianca. Apriamo così con la poesia del pescatore per introdurvi questo progetto europeo, The Fish Gear, un progetto di circa 5 milioni di euro come valore complessivo, un progetto transfrontaliero perché appunto prevede, coinvolge l'intero Adriatico, un progetto che si traduce, che si tradurrà in una strategia per ridurre l'inquinamento dai rifiuti marini e non solo, perché ci sono altre ricadute particolari e curiose, in particolare per quello che riguarda l'Italia. Di tutto questo ne parliamo con Paolo Pelusi, che è il presidente del Consorzio Mediterraneo, la struttura tecnico-scientifica di Lega Pesca che coordina per l'Italia il progetto. Buongiorno Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei, grazie. Che cos'è The Fish Gear? Come si può descrivere? Per cercare di inquadrarlo in poche parole, è un progetto che vuole non solo avviare un sistema, diciamo, di raccolta dei rifiuti a mare di origine antropica, ovviamente in tutto l'Adriatico, ma vuole anche trovare una codificazione di questi sistemi che poi possa essere utilizzata in maniera omogenea in tutti i paesi e magari entrare nelle normative dei singoli paesi che si affacciano all'Adriatico. Ok, quindi una sperimentazione che possa diventare poi faro per il futuro. 16 gli enti beneficiari, 4 le associazioni provenienti da tutti i paesi che si affacciano sul mare Adriatico, dall'Italia alla Grecia. Quali sono queste buone pratiche che verranno messe in atto? Il progetto è abbastanza articolato, non riguarda soltanto la partita classica di facile comprensione, che è quella della raccolta della spazzatura in mare o dei comunque rifiuti o sul fondo galleggianti. C'è anche due aspetti, uno un po' più scientifico e uno, diciamo, un po' più pratico. Quello più scientifico riguarda la valutazione delle cosiddette microplastiche e nanoplastiche che sono presenti in ambiente marino, purtroppo ovunque, e dall'altra parte un'attività abbastanza innovativa, che è quella della riciclo delle reti che non vengono più utilizzate dai pescatori o che vengono raccolte in mare per farne nuovi prodotti riutilizzando il nylon di cui queste reti sono formate. Infatti c'è proprio l'idea di riutilizzare questo nylon per fare bikini, calzini, tappeti, insomma materiale sia di arredamento, di ornamento, sia indumenti di alta qualità. Sì, queste sono le esperienze che già sta portando avanti la società che si chiama Aquafil, che è una società che si occupa appunto del riutilizzo del materiale in nylon, che proviene ovviamente non soltanto dalle reti ma da tantissime altre fonti, diciamo, di produzione. È una società che ha sede sia a stabilimenti sia in Italia che in Slovenia. Sì. E che ha già questa esperienza di riutilizzo di nano, le ripeto, da diverse provenienze, per produrre appunto bikini, per produrre calzini, per produrre tappeti nuovi, quindi riciclando il vecchio materiale e riutilizzandolo come nuovo, con un sistema abbastanza complesso ma che riporta, diciamo, all'elemento base chimico del nylon, quindi lo rispezzetta fino a ridurlo ai mattoncini di base per ricostruirne poi delle strutture dei filamenti nuovi. Ed è un sistema collaudato che già utilizzano, e noi ci siamo agganciati a questa possibilità per riutilizzare appunto le reti che verranno raccolte nel nostro progetto. Ma chi deve fare, Pelusi, lo scatto culturale più importante, più incisivo, affinché il progetto abbia ricadute reali? Cioè, sono i pescatori i primi che si devono abituare a un nuovo modo di lavorare? I pescatori, sì, loro hanno, diciamo, qualche cattiva abitudine consolidata, ma già da tempo stanno abituandosi a capire che essendo loro i protagonisti in tutti i sensi del lavoro a mare, quindi dell'ambiente marino, stanno già da tempo, diciamo, avviando dei sistemi di rapporto con l'ambiente marino diversi. Lì c'è un discorso generale legato a tutta alla gestione dei rifiuti antropici, spesso di origine terrestre, che è stata fino adesso sicuramente sottovalutata, perché in queste nostre esperienze, ma anche da altre che si trovano in letteratura, il quantitativo di materiale, diciamo, non biologico che si trova in mare è veramente enorme. Mm-hmm. Quindi il problema della sua raccolta, gestione e smaltimento, perché poi c'è pure la parte dello smaltimento che è legata a tutta una serie di normative spesso differenti da Stato a Stato, è una problematica seria da affrontare in maniera molto molto seria. L'Adriatico quindi coinvolto, ma queste buone pratiche poi potranno essere utilizzate anche in altri mari europei. TheFishGear.net è il sito per conoscere l'intero progetto. Il porto di Ancona sarà il collection point nazionale. Cosa significa? Significa che abbiamo posto ad Ancona, che è una marineria importante, quindi con un elevato numero di imbarcazioni, il punto base dove raccogliere appunto tutte queste reti affinché poi vengano caricate e trasportate nell'impianto di riciclo, diciamo, di questi materiali, perché poi appunto possa essere riutilizzato il nylon di cui sono composte. Perfetto, anche questa è l'altra Europa, anche questa è l'Europa che entra nel nostro quotidiano per cambiare in meglio le cose. Grazie davvero a Paolo Pelusi, presidente del Consorzio Mediterraneo, struttura tecnico-scientifica di Legapesca. E buon sabato, Pelusi. Grazie, buongiorno anche a lei. Arrivederla, buongiorno. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Going Abroad, un'app per chi viaggia. Siete in viaggio e vi chiedete qual è il limite di velocità nelle autostrade spagnole? Oppure se è obbligatorio il casco se si va in bicicletta in Svezia? Non cercate più su internet, guardate sulla nuova app per smartphone elaborata dalla Commissione Europea, che contiene tutti i regolamenti per i viaggiatori su strada nei paesi dell'Unione Europea. Trovate tutto, dal limite della quantità di alcol assunta per chi guida al comportamento ai semafori. Cercate sul vostro store online Going Abroad, oppure guardate la versione online su ec.europa.eu/transport/road safety/going abroad. L'altra Europa. She don't know the system, plus she don't understand. She's got all her own fuses and splices. She's not gonna fix it all too easy. The masking tape tangles, it's sticky and black. and the copper, proud-headed Queen Lizzie conducts little charges that don't get charged back. Well, the technical manual's busy, she's not gonna fix it all. Ambiente e sostenibilità, le parole chiave della puntata di oggi, e quindi non possiamo non parlare di NER 300, che è il progetto di finanziamento dell'Unione Europea dedicato alla lotta ai cambiamenti climatici, con i quali sono stati assegnati fondi per un totale di 1 miliardo di euro distribuiti tra i paesi dell'Unione Europea, 19 i progetti vincitori del bando, 2 dei quali italiani, uno in Puglia e uno in Sicilia. Di tutto questo ne parliamo con Sebastiano Serra, che è consulente del Ministro dell'Ambiente, lavoro per la segreteria tecnica del Ministro Galletti. Buongiorno Serra, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno e buona mattina a lei. Grazie. Che cos'è intanto NER 300? Se lo può definire meglio? Il NER 300 non è altro che è la sigla New Entrant Reserve, 300 sì. milioni di tonnellate, cioè la Commissione Europea ha messo da parte 300 milioni di tonnellate di CO2 che sarebbero dovute andare alle aste, uh-huh. facendo un'asta ha ricavato dei soldi, però li ha messi da parte per finanziare progetti sulle fonti rinnovabili e sulla cattura e stoccaggio della CO2. Questo al fine di ridurre la CO2 entro quegli obiettivi che si è fissata al 2020, cioè riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, aumento dell'efficienza energetica del 20%, aumento delle rinnovabili del 20%. Quindi prende questi soldi e finanzia progetti di alto valore tecnologico in questo campo. Quindi insomma con l'inquinamento ci si ripaga un po' l'ambiente, ecco, diciamo. Ecco, sì, questo è proprio la riduzione del CO2. Il CO2 non è che inquina, il CO2 provoca i cambiamenti climatici, l'aumento di temperatura e i cambiamenti climatici. Per evitare questo, l'obiettivo è quello di ridurre continuamente questa CO2 in modo tale che il cambiamento climatico, cioè l'aumento di temperatura, non avvenga. Uh-huh. Ecco, questo è l'obiettivo. Questi fondi sono andati appunto attraverso due cosiddette call, due chiamate, la prima dell'anno scorso di 200 milioni di tonnellate di CO2, la seconda quest'anno di 100 milioni di tonnellate di CO2 trasformate poi in euro, a progetti sulle rinnovabili e sulla cattura e stoccaggio del CO2. Nella prima call, diciamo, nella prima chiamata, l'Italia ha preso un progetto, ha ottenuto fondi per un progetto che è quello poi di Crescentino, di Mossi Ghisolfi, sì. sul bioetanolo di seconda generazione, cioè la produzione di bioetanolo attraverso biomasse che certo. non sono alimentari. Non so se l'ha sentito, sì, insomma sì, quello sì. è stato il primo progetto. Nella seconda chiamata, quest'ultima, ha preso due progetti, ha ottenuto il finanziamento per due progetti. Il primo è un progetto che riguarda la smart grid, cioè la griglia intelligente, la rete intelligente per tutta la regione Puglia. Voi sapete che la Puglia è una regione che ha un'alta concentrazione di fonti rinnovabili non stazionarie, cioè fotovoltaico e eolico. Sì. E ci sono delle difficoltà a mettere in rete fonti di questo genere se la rete non viene adeguata opportunamente. Ecco, questo progetto non fa altro che fare in modo che le fonti rinnovabili presenti in Puglia siano adeguatamente utilizzate per fornire energia alla rete pugliese, altrimenti con la vecchia modalità di trasmissione dell'energia avrebbe difficoltà l'Enel distribuzione a fornire energia alle famiglie, alle industrie, eccetera. Certo. Quindi questo progetto è molto importante, è un progetto che vale e che è finanziato dalla Commissione Europea per circa 85 milioni di euro. Quindi insomma una cifra grossa, sì, proprio rilevante. Il secondo è un progetto di solare a concentrazione, un impianto di 50 megawatt a Mazara del Vallo, e anche questo ha ricevuto un finanziamento intorno a 40 milioni di euro. Quindi è una tipologia che ci permette di ottenere energia, anche grandi quantità di energia, con una tecnologia nuova. Questo è l'obiettivo ed è in linea con quello che stiamo tentando di fare dappertutto, cioè non finanziare più fonti rinnovabili di tipo vecchio, di tipo diciamo classico, ma andare sulle nuove tecnologie, cosa che l'Italia, per l'Italia è molto più importante, cioè creare un mercato di nuove tecnologie significa creare fabbriche in Italia che permettono di fare queste operazioni, permettono di fare queste attività ottenendo dei risultati, questo è l'obiettivo. Risultati che sono lotta al cambiamento climatico, risultati che sono aumentare l'efficienza e modernizzare anche la rete e anche creare posti di lavoro, perché questo è fondamentale. Questi due progetti sono progetti pilota e possono avere ricadute per altri progetti, per altre situazioni, diventano anche queste buone pratiche da copiare, da imitare. Sicuramente le nuove tecnologie di questo tipo permettono sviluppi, sviluppi perché diciamo su Luna, Smart Grid, chiaramente entra tutto, entra l'elettronica, entra la meccanica, entrano dei campi dell'ingegneria molto importanti, quindi occupazione soprattutto di qualità, di alto livello è prevedibile in quella regione, la regione Puglia, dove probabilmente l'occupazione risulta molto importante, molto rilevante per quella regione. E anche il secondo progetto, anche di nuove tecnologie, quindi anche quello riuscirà a concentrare nuove occupazioni. Per adesso non è che ci aspettiamo chissà che cosa, però diciamo è un segnale che permette poi di svolgere attività a seguire dello stesso tipo e quindi espandere la tipologia di progetto verso altri campi, verso altri territori e quindi ottenere poi un contributo indotto da questa cosa molto elevato. Cioè se la Smart Grid va anche in altre regioni, viene fatta in altre regioni perché si deve cambiare la struttura di trasmissione dell'energia, in quanto qua parliamo di energia distribuita sostanzialmente, non quella concentrata dai grossi impianti di combustione, dai grosse centrali, ma energia distribuita significa che è fatta sul territorio e lì dove è fatta viene utilizzata direttamente senza perdite, perché le perdite sono importanti sulla rete, quindi ecco, questi obiettivi diciamo di efficienza da una parte, di fonti rinnovabili all'altra, in sinergia tra di loro permettono di ottenere dei risultati sia in fase di occupazione che di capacità poi delle aziende di andare all'estero, di vendere questi impianti, di avere delle tecnologie nuove che possono permettono appunto di sviluppare il lavoro anche in Italia. Tra i 19 vincitori del bando, quindi due sono progetti italiani, questo significa che a livello europeo comunque l'Italia è all'avanguardia? L'Italia c'è? L'Italia c'è, diciamo che fra tutti quelli che sono presenti, diciamo le smart grid e gli impianti a concentrazione solare a concentrazione sono forse quelli più avanzati assieme a impianti tipo oceanico, sono tre quelli che sono stati presi in Europa, sì. E alle biomasse intese come impianti di biomassa che è produzione di bioetanolo, cioè di carburanti per di provenienza da biomassa. Ecco, questi sono i più importanti fra quelli approvati. Ce n'è poi uno che riguarda l'Inghilterra ed è la cattura e lo stoccaggio della CO2, è l'unico impianto che è stato finanziato in questa call. Anche qua è veramente nuova tecnologia, si tratta di un impianto che si chiama tipo oxyfuel, cioè viene bruciato il combustibile, il carbone con ossigeno puro e questo permette di ottenere la cattura della CO2 molto più facilmente per poi stoccarla nel sottosuolo oppure utilizzarla da qualche parte, perché può essere utilizzata anche la CO2 per fare acqua frizzante, acqua. Ecco, sono cose che permettono comunque di avere una tecnologia in avanguardia molto importante per l'Europa e la creatività non manca per fortuna. ec.europa.eu/clima oppure minambiente.it sono i siti di riferimento. Un grazie davvero a Sebastiano Serra, consulente del Ministro dell'Ambiente e appunto al lavoro per la segreteria tecnica tecnica del ministro Galletti. Buon sabato Serra e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buona mattinata, buon sabato, arrivederci. Un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Garanzia giovani. Garanzia Giovani è il piano italiano rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per accedere ad opportunità di formazione e lavoro nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee, pensato per favorire la loro occupabilità e incentivare le possibilità di avvicinarsi al mercato del lavoro. Se avete i requisiti di età e siete in cerca di opportunità di lavoro, fateci un giro. Lì si possono conoscere le possibilità offerte dalla rete EURES o cercare gli eventi e gli job day organizzati nella propria regione. Si può anche aderire lasciando le proprie credenziali e si verrà poi inseriti nel portale Click Lavoro oppure si verrà contattati dal servizio per l'impiego della regione in cui si desidera trovare lavoro. Volete saperne di più? Andate su garanziagiovani.gov.it. L'altra Europa. Partenaire de l'expédition, l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer récupère les échantillons prélevés en Méditerranée pour les analyser. Et parmi les chercheurs impliqués, certains souhaitent quantifier les microplastiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est voir quelle est l'importance du plastique dans la population planctonique en mer Méditerranée. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, puntata dedicata all'ambiente e alla sostenibilità, quello che state ascoltando. È una pagina di un diario di bordo di Tara, che è una goletta che sta attraversando il Mediterraneo per fare ricerca scientifica, perché il progetto Tara è un progetto scientifico e ambientale supportato dalle Nazioni Unite, e in questo momento, in questi mesi, è proprio il Mediterraneo, quindi il nostro sfogo marino, lo sfogo marino dell'Europa, lo sfogo meridionale, a essere studiato e analizzato per capire meglio che cos'è Tara, la goletta, e cos'è anche, appunto, nello specifico il progetto scientifico più ampliato. C'è con noi il dottor Chris Bauler, direttore di ricerca del CNRS francese, dell'Istituto di Biologia della Scuola Normale Superiore di Parigi. Buongiorno Bauler, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Che cos'è il progetto Tara? Come lei ha detto, il Tara è una goelette, una barca di ricerca che esiste da qualche anno e fa ogni anno dei spedizioni, sì, specifici su diversi argomenti particolarmente importanti. Mm-hmm. Il progetto attuale è infatti relativamente limitata rispetto a quello che è stato fatto in anni passati. Il Tara ha già fatto una deriva sul ghiaccio nell'Artico, sì, che è durato 18 mesi, ha già fatto un giro intorno all'Artico, passando per il passaggio nord-est, il passaggio nord-ovest l'anno scorso. Ha già fatto un giro del mondo raccogliendo il plankton marino durante una spedizione di 2 anni e mezzo. Questa spedizione attuale, quindi nel Mediterraneo, è relativamente limitato, però comunque è un progetto che ci tiene molto perché è focalizzato su un'analisi dell'inquinamento di plastica nel Mare Nostrum, nel Mediterraneo. Certo, e in effetti dopo aver fatto Groenlandia, Antartide, Patagonia, l'Artico, il Mediterraneo sembra quasi una passeggiata, e invece per i biologi, fisici, chimici, gli ingegneri che sono a bordo, sono 14 le persone, mensilmente, almeno gli scienziati, cambiano ogni mese, proprio perché è una barca di ricerca, quindi c'è uno scambio di teste e competenze. Il focus adesso sul Mediterraneo, in particolare la plastica che galleggia nel nostro mare, è questo che state cercando di analizzare, lo stato delle acque? Sì, esatto, si tratta di fare una specie di bilancio su quanto è inquinato oggi, come oggi, il Mediterraneo in plastica. Si tratta di piccoli frammenti di plastica, non che sono frammenti che non si vedono, sì, veramente stanno sotto in superficie. Ci vogliono metodi di raccolto particolare che abbiamo messo a punto e stiamo utilizzando dappertutto nel Mediterraneo per fare un conteggio di quanti frammenti di plastica si trovano, di quali dimensioni e quali sono gli organismi che si attaccano sopra. E qual è il tipo di plastica che si trova, i poliacrilamide, polietilene, eccetera. Mm-hmm. Quindi vari studi saranno fatti sui frammenti di plastica una volta raccolto. Bowler, si studia tanto la presenza della plastica nelle acque, perché è molta, perché inquina, perché danneggia direttamente gli animali, ma voi studiate, non è immagino solo un'analisi quantitativa, state cercando di capire se questa plastica sta variando dinamiche. Sì, esattamente. Quindi prima di qualche anno fa la plastica non c'era nelle acque degli oceani. Si tratta di una cosa relativamente recente che data dall'invenzione della plastica tipo 70 anni fa. Adesso ci sono tanti frammenti di plastica che si galleggiano tutto dappertutto nel mondo e cerchiamo di capire quali sono gli effetti per gli ecosistemi marini, quanta plastica, insomma, quante molecole di plastica finiscono ad entrare nella catena alimentare attraverso i pesci, eccetera, e quindi quante molecole ritornano verso di noi. Uh-huh. Finalmente questa è una parte dello studio molto importante, come anche molto importante di capire i cambiamenti dell'ecosistema marino dovuto a questi frammenti di plastica che galleggiano dappertutto. Certo. Quindi ci sono gli organismi che si attaccano, tanti diversi organismi, i molluschi, eccetera, anche molti microorganismi, plancton, i batteri, eccetera. Tutto questo sta cambiando l'ecosistema, chiaramente. Avete già analizzato un numero di dati sufficiente per fare delle prime valutazioni? Ma no, in questo progetto no. In questo progetto si tratta di raccogliere tutti i campioni, quindi di completare il campionamento che va ad andare fino a novembre, mi sa, facendo tutto il Mediterraneo. Una volta raccolto tutti i campioni, ci saranno qualche migliaia di campioni. Mm-hmm. Faremo l'analisi cominceremo l'analisi su tutti e ci vorranno un paio d'anni per avere un primo bilancio sui risultati, direi. Certo. Bowler, al di là della ricerca scientifica, ha un qualcosa anche di poetico questa imbarcazione, vero? Costruita più di 25 anni fa da un esploratore francese, un'imbarcazione capace di andare sia tra i ghiacci sia nel Mediterraneo, quindi con caratteristiche assolutamente particolari. Che emozione si prova a navigare con Tara? Ma è una barca molto particolare, come lei ha detto, è un'esperienza fantastica vivere a bordo. Siamo solo tipicamente 14 persone a bordo, fra scienziati, fisici, biologi, matematici, ingegneri, altro, ai marinai, ci sono tipicamente 5 marinai a bordo, e poi qualche giornalista, artista, qualcuno che fa un ricordo artistico, filosofico della spedizione. Quindi è un momento molto molto molto bello nella vita. Si tratta di vivere in un piccolo ecosistema. Uh-huh. Sulla barca uno dipende soltanto dell'orario del giorno e del tempo. Certo. Se è brutto tempo, le condizioni del mare, e poi tutto il resto è irrilevante praticamente. Non c'è televisione, internet è molto limitato. Mm-hmm. Quindi è un'esperienza molto bella, insomma, che fa riflettere su come vivere in un rapporto con l'ambiente molto più vicino, molto più appropriato. Esatto, ecco. si hanno gli stessi ritmi. Tara Expedition, lineetta it.blogspot.it, il sito, le pagine in italiano per leggere anche il diario di bordo e seguire nel tempo la spedizione e la ricerca scientifica. Grazie davvero Chris, è stato un piacere chiacchierare con te e buona navigazione. Prego, grazie, arrivederci. Europost-it. Concorso per traduttori. L'EPSO, European Personnel Selection Office, ha aperto un nuovo concorso per selezionare traduttori per le istituzioni dell'Unione Europea. In particolare si cercano traduttori di tedesco, spagnolo, greco e svedese. Per partecipare è necessario avere un diploma di laurea e conoscere perfettamente una delle quattro lingue per cui si partecipa al concorso, più due altre lingue diverse tra inglese, francese o tedesco. Il concorso per esami servirà a creare elenchi per coprire i posti vacanti di funzionario e i candidati che supereranno le selezioni con successo e verranno chiamati potranno lavorare con un contratto da amministratore con una retribuzione base molto buona. Per partecipare e conoscere tutte le possibilità lavorative andate sul sito ufficiale dell'EPSO europa.eu/EPSO. Se avete qualche problema nel mandare la candidatura c'è anche un punto di contatto per i candidati che possono mandare le proprie domande online oppure chiamare un numero di assistenza. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I've been to centuries, anxiety. Yes, the credit's on him. It's getting better, I'm simple. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food. Ambiente e sostenibilità sono i due binari che ci accompagnano in questa puntata dell'Altra Europa. Ambiente, sostenibilità e nuovi stili di vita come quelli che propongono da sempre i villaggi ecologici in Italia e in Europa. Si è appena costituita Ecolize, che è una sorta di coordinamento di rete europea dei villaggi ecologici. Cerchiamo di capire cos'è un villaggio ecologico e cerchiamo di capire il perché di questo bisogno di fare un percorso comune a livello europeo. Di tutto ciò ne parliamo con Francesca Guidotti, che è presidente di Rive, che è la rete italiana dei villaggi ecologici. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, tentiamo intanto di definire un villaggio ecologico. Che cos'è? Un ecovillaggio è detto anche una comunità intenzionale, cioè un gruppo di persone che condivide l'intenzione, un'intenzione profonda di raggiungere un obiettivo comune attraverso un orientamento comune nello stile di vita. Il focus principale è appunto l'ecologia e con questa si valutano tutte le decisioni da prendere assieme, da come saranno le abitazioni, da come si coltiva i terreni, anche che tipo di attività si vogliono proporre all'interno della comunità. E allo stesso tempo si guarda all'ecologia anche quando si tratta di relazioni, cioè riuscire a trovare un'armonia nella biodiversità delle individualità che ci sono all'interno della comunità. Quante sono le realtà in Italia e quante sono le realtà in Europa? Allora, le realtà per quanto riguarda l'Italia, a Rive aderiscono circa una quarantina di progetti, tra appunto progetti allo stato proprio iniziale e ecovillaggi veri e propri. In realtà in Europa si va nella dimensione di qualche centinaio, anche se tutti non sono stati ovviamente scoperti ancora, perché molti lo sono già senza sapere di essere ecovillaggio. Anche perché insomma sono, da quello che hai raccontato e un po' li conosciamo anche, insomma sono realtà molto diverse anche tra di loro, quindi forse anche complicato, ed è anche il bello della ricchezza, della varietà, comunque trovare caratteristiche, sì, esatto, caratteristiche comuni. L'Altra Europa. Eccoci qui ancora all'Altra Europa, sempre insieme a Francesca Guidotti, presidente della rete italiana dei villaggi ecologici. E Francesca, che abbiamo appunto convocata per parlarci anche di Ecolize, questo nuovo progetto, questa nuova realtà appena nata. Di cosa si tratta? Ecolize è un'organizzazione che raduna, fondata a 25 fondatori da 21 paesi europei diversi. È nata adesso, nel maggio 2014, ed è una rete che coinvolge sia reti nazionali ma anche singole associazioni di permacultura, transition town, ecovillaggi e, una cosa molto interessante, vi aderiscono un'associazione di municipalità, quindi di comuni, più di 600 comuni in tutta Europa, che cercano appunto di fare una politica diversa sul territorio, prendendo appunto spunto dall'ecologia e da un approccio al territorio, cercando di appunto mantenerne le qualità e riconvertire quegli spazi, quei territori che fino ad oggi magari sono stati sfruttati e invece hanno bisogno di ritornare fertili come prima. Che questo è un bel salto culturale, perché comunque molte volte gli ecovillaggi o le comuni, insomma, sono sempre viste come situazioni un po' estreme, situazioni di nicchia, invece sono situazioni che sono dei laboratori di fatto, quindi si possono comunque apprendere nuove modalità di relazione tra le persone e tra il territorio, che poi possono tornare utili anche in scala più grande. Sì, gli ecovillaggi sono sempre in sperimentazione, da quando nascono per poi tutto il periodo in cui durano. Sì, sono sia dei laboratori di sperimentazione sociale sia appunto di stile di vita, cioè come possiamo vivere in maniera diversa e con meno impatto ambientale sul pianeta. Ci sono realtà che sono 30 anni che stanno lavorando in questa direzione e hanno creato degli ecovillaggi, dei sistemi che riescono ad avere un basso impatto ambientale. Oggigiorno si sente ancora più questa esigenza, molti si stanno convertendo a questo, ma non è tanto l'importanza appunto di fare tanti ecovillaggi, tante piccole comunità. L'importante è che si passi il messaggio che si può vivere in una maniera differente, ovunque noi siamo, ma ci sono già delle soluzioni applicate che possono fare tutti nel modo più diverso, perché anche gli ecovillaggi fra di sé, come dicevi giustamente tu prima, sono molto diversi fra di loro, prendono un po' la forma e l'aspetto di chi li abita. E l'Europa, insomma, nelle sue mille, per fortuna, differenze, è pronta per relazionarsi con gli ecovillaggi? Insomma, un po' il fatto di unirsi e di mettere insieme anche le varie reti è proprio, credo, per avere una voce anche più alta. Sì, lo sta già facendo, per esempio attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite c'è un'agenzia che è in contatto con alcuni rappresentanti del Global Ecovillage Network europeo, che è la rete globale degli ecovillaggi nella sezione europea, per avere un confronto, uno scambio e delle proposte da parte degli ecovillaggi verso appunto i governi per appunto le finalità di cui parlavamo prima. E quindi già questo avviene, l'intento di GEN, di Rive, di Ecolize e di altre realtà come prima ho citato, è quello di adesso è venuto il momento di unirsi tutti insieme, perché evidentemente è un tema che sta a cuore a tutti, abbiamo delle proposte da portare e unendoci speriamo di dare più forza e anche più autorevolezza alle istanze che portiamo, certo. Proprio perché sono pratiche ormai condivise non solo tra gli ecovillaggi ma anche tra altre realtà diverse da loro. Grazie davvero a Francesca Guidotti, ecolize.eu il sito per conoscere l'organizzazione, oppure ecovillaggi.it per la realtà, per la rete italiana. Grazie Francesca, buon sabato e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Europost-it. Cerchi lavoro? Cerca gli eventi Eures. Se state cercando lavoro anche fuori dall'Italia, prima di tutto ricordate il portale Eures, che raccoglie opportunità di lavoro da tutta Europa e offre molti strumenti per candidarsi, scrivere e mettere online il proprio curriculum. Per conoscere meglio come funziona e cosa offre, vengono spesso organizzati eventi, fiere e job days a livello nazionale e locale. Per trovare tutti gli eventi, andate sulla sezione calendario sul sito ec.europa.eu/Eures. Arabayı sen kullan demiştim hiç kilim. Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedin. Bu otel güzel, adını sevdim orada. Öyle yerlerime dokun dokunmadı kimsenin. Sarhoş olsak ya, kimiz unutsak ya. Bardaktan boşansak ya, sarhoş olsak ya, tek vücut olsak ya, yüksek doz aşk alır, burada mutlu ölsek ya. Rock turco, e ringrazio le mie collaboratrici Margherita Aine e Silvia Righini, sono loro a trovare queste belle musiche che ci accompagnano per introdurre i nostri argomenti in questa puntata dedicata all'ambiente. Stiamo andando in Turchia, quindi lì nell'Europa che sarà, perché grazie a scambieuropei.com, il portale che anima tutto ciò che è scambio europeo, e se andate a cercare qualche campo di volontariato ambientale, sono tante le possibilità che l'Europa offre, e appunto ne abbiamo trovato uno in Turchia. Si è svolto nel mese di agosto, si sta svolgendo in queste settimane, e con noi c'è Angela De Poli, che invece l'ha fatto lo scorso anno nella stessa situazione, così volevamo capire un po' cosa significa dedicare 2 mesi della propria vita per l'ambiente, per l'Europa. Ciao Angela, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao. Allora, che ricordo ti porti? Quanto ti hanno cambiato questi 2 mesi? Bah, guarda, all'inizio non credevo sarebbero stati così impattanti sulla mia vita, ma invece penso che lo siano stati. Ho cambiato un po' la visione su tante cose, e ho conosciuto persone fantastiche, una nuova cultura che è quella turca, e sono stati fantastici momenti. Ho imparato tante cose sul campo anche, dato che appunto è stato un volontariato ambientale, qui abbiamo passato ogni giorno praticamente a monitorare la spiaggia, a pulire, a cercare di insegnare ai ragazzi a non rovinare, a distruggere la natura, ma soprattutto abbiamo salvato tartarughe marine, che era quello il nostro principale compito. E infatti capiamo bene questo campo, un campo del servizio volontario europeo finanziato dal progetto di Gioventù in Azione. Qual era il contesto? In che situazione eravate? Il contesto era praticamente, c'è questa associazione con cui io ho comunicato in Italia, sì. Lo Scambio Europei, che mi ha permesso di mettermi in contatto con l'associazione turca, sì, che si chiama Third Eye on the Mediterranean, e in pratica loro hanno deciso di avere un numero di, mi pare, 10 volontari ogni 2-3 mesi, che venivano turnati tra di loro, e il compito era quello di, in base alla stagione, perché poi il progetto dura tutto l'anno, in base alla stagione era quello di piantare alberi in zone in cui erano state, in zone che erano state risboscate, oppure sì, appunto d'estate, nel periodo in cui sono stata io, c'era il periodo del monitoraggio delle mamme tartarughe che andavano a deporre le uova nella spiaggia. Quindi passavi le giornate a guardare le tartarughe tu? Le nottate? Sì. Le nottate sì, le giornate le passavamo a pulire la spiaggia, perché davvero penso che l'immondizia da tutto il Mediterraneo arrivasse lì. E, sì, durante le nottate monitoravamo più o meno 10 km di spiaggia in cui le tartarughe andavano a deporre le uova, perché nel punto in cui queste nascono poi si sa che ritornano per deporre le loro uova a loro volta. Sì. Essendo una zona molto industrializzata e veramente degradata, stavano cercando di renderla più adatta alla deposizione delle uova, e cercando di sensibilizzare le persone ad aiutare anche questi bravissimi ragazzi dell'associazione che lavorano per le tartarughe ogni giorno. Quindi un lavoro reale, un lavoro concreto. Tu sei sempre stata sensibile all'ambiente o era più la voglia proprio di buttarsi in un'attività di volontariato? No, devo dire che sono sempre stata abbastanza sensibile riguardo a questo campo. E è stata un'esperienza fantastica che davvero mi ha permesso di essere ancora più coinvolta in questo. Ricordiamo scambieuropei.com per trovare tutti i progetti e in particolare quelli del servizio volontario europeo per periodi medio lunghi, tu 2 mesi, ma ci sono anche periodi di 12 mesi. Sì, fino ad un anno. Esatto, esperienze sì. In tutti i campi, ambientali, nel sociale, insomma. Davvero qualsiasi cosa. Sì. Per me è stato molto utile nel momento in cui cercavo, dopo la laurea, di passare un periodo più o meno lungo all'estero. Quando ho trovato questo progetto ho pensato che fosse appunto fatto per me. Sono stata molto contenta quando sono stata selezionata. So che adesso vivi in Danimarca, cosa fai? Sì, vivo in Danimarca, sto facendo un dottorato in Danimarca e Olanda. Ok, fantastico, in che cosa? Biologia molecolare. Ok, insomma, quindi sei lì, hai la mobilità dentro e questo ci piace perché l'Europa passa anche sì, da questa esperienza. Esatto. Grazie davvero Angela, complimenti. Ciao e buona ciao. Estate. Ciao. Grazie altrettanto, ciao. Termina qua questa puntata dell'Altra Europa che abbiamo dedicato all'ambiente e alla sostenibilità a 360 gradi. Un grazie a tutta la squadra, un grazie a Carmelo Lauricella, oggi alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito da dove potrete scaricare la puntata. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.